L'aria che respiro è sempre fresca e odora di felicità. Volentieri attingo a quella brezza se ho qualcosa che non va. Mi avveleno di preoccupazioni o di vane illusioni, ma se ti guardo mi consolo e lo spettro del mio tormento si allontana e va verso il vento, come un uccello piglia il volo. Speriamo si perda, speriamo si perda, ritorna. Ah, speriamo si perda, speriamo si perda, ritorna. Ah, ah. Lassù non piove il cielo, non è mai blu, ma da una luce che abbaglia tutte le nostre soglie e porta un gran vigore che mi entra dentro e mi trascina fin là. Forse è la mia vita o quella d'altri, chi lo sa. Certo ci vuole tanta strada per arrivare fino là. Il conflitto che mi porto dentro fra l'orgoglio e il sentimento mi fa sentire quasi solo, ma dopo qualche lieve sbandata o qualche scivolata uccello volo e non mi perdo, nemmeno mi attardo a ritornare. E non mi perdo, nemmeno mi attardo a ritornare. Mi piace il rischio che se di non aver avuto buone scarpe e sotto il ponte dei più semplici sogni mi addormento. Oh, oh. Questo monte può finire solo ai piedi di chi più lo calca e spera. Sul sentiero che tracciato ha già.